Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Ops, non partiva la sigla del Last Minute e poi ce l'abbiamo fatta, come avete potuto ben sentire, con le 7:47 minuti di questo 10 luglio 2023, dopo il GR di Radio Popolare, arriva la presentazione di quella che sarà la decima e ultima edizione di Lagolandia. È stata presentata la settimana scorsa, ho deciso di portarla in questo, tra virgolette, Last Minute, presso la sala Extra Bow dell'Outdoor Info Point in Piazza Nettuno. È stata presentata questa decima e ultima edizione di Lagolandia, villeggiatura contemporanea, la rassegna che invita a esplorare l'Appennino bolognese attraverso sentieri culturali, incontri, musica, arte, relax, e in programma quest'anno dal 3 al 6 agosto. Allora, già la definizione di Lagolandia per i laghi sull'Appennino, quindi bacino di Suviana, Brasimone, Santa Maria, anche il delizioso è quello che a me, anche se non sono appenninico, quello che diciamo mi vede a volte presente, il laghetto di Castel dell'Alpi, ma anche gli altri ovviamente ci mancherebbe, hanno caratteristiche molto interessanti, valorizzate anche da questa iniziativa che dal 3 al 6 agosto con Lagolandia e villeggiatura contemporanea troveranno spazio appuntamenti di 4 giorni per quanto riguarda arte, cultura, musica, grazie ai comuni anche di Comugnano, di Castiglion dei Pepoli, di Castel di Casio, di San Benedetto Val di Sambro. Ma per saperne di più, ovviamente, la nostra Clarissa La Penna, nella sua ultima conferenza stampa di collaborazione con Radio Città Fujiko, ha avuto occasione di intervistare Chiara Galloni, fondatrice e project manager di Lagolandia. Sentiamo appunto questa conversazione, a tra poco. Ci troviamo alla presentazione di quest'anno del progetto Lagolandia, la villeggiatura contemporanea, una rassegna che invita a esplorare l'Appennino bolognese. A tal proposito siamo qui in compagnia con Chiara Galloni, che è la fondatrice e la project manager di Lagolandia. Ciao Chiara. Buongiorno. E oltre ad essere passati appunto 10 anni, ci troviamo all'ultima edizione. Quali sono le novità di quest'anno e come ti senti anche a sì, proposito? Innanzitutto è commovente in un certo senso, perché è un cerchio che si chiude, è un'esperienza che è stata bellissima non solo per noi come ideatori, come progettisti della manifestazione, ma anche per il territorio e per quello che effettivamente abbiamo visto accadere in questi 10 anni. E pensare che tutto quello che è successo in 10 anni, proprio le trasformazioni che questo territorio ha avuto dal punto di vista dei servizi, degli equilibri amministrativi e della vitalità culturale, insomma, pensare che tutto questo sia accaduto anche grazie, quindi non soltanto, ma anche grazie a un esperimento come quello che è stato Lagolandia, insomma, è motivo di grande orgoglio. Consideriamo che 10 anni fa quello che oggi ci sembra scontato, cioè l'idea dei cammino, del turismo lento, di esplorare anche attraverso attività culturali, musicali, letterarie, un territorio, non lo era. Quindi io credo molto nel fatto che i progetti culturali debbano essere uno specchio dei tempi, debbano precorrerli, interpretarli, e quindi ora ci siamo resi conto che l'obiettivo di Lagolandia è esaurito e quindi deve trasformarsi. Non è un addio, è un'evoluzione. Lagolandia diventerà il sentiero dei laghi di Bologna, quindi si inserisce in una mappa di sentieri molto ricca, ma appunto proprio per questo aiuterà anche a abbassare la pressione che altri sentieri più noti hanno ora, e insieme continuerà a ricordare come questa esperienza eventistica ha creato questa, ha fatto conoscere agli abitanti e ai turisti l'esistenza di questa zona del nostro Appennino che spesso era sconosciuta anche ai locali. Quindi la Golandia è sempre stata natura, cultura e scienza, e anche i sentieri, le tre tematiche che sono sempre state appunto esplorate attraverso questa pratica dei sentieri culturali, cioè esplorazioni guidate da esperti, artisti, professionisti locali e di fama nazionale e internazionale, che quindi venivano a raccontare il territorio attraverso la propria sensibilità e competenza. Quindi, anche se in 10 anni abbiamo ovviamente calcato gli stessi sentieri più volte, non è mai stata la stessa cosa, perché ogni volta l'averli fatti guidare da professionisti diversi ha permesso un'esperienza unica a chi partecipava. E questo è stato forse il modo, appunto un evento di piccoli numeri, perché i sentieri possono essere partecipati al massimo da 25-30 persone, proprio perché rimanga un'esperienza anche fruibile dal punto di vista dell'ascolto, perché non abbiamo microfoni, e proprio camminare in mezzo alla natura ascoltando queste persone che si raccontano. E questo è il modo per far rimanere impressa un'esperienza nelle persone. Che ricordiamo che andrà dal 3 agosto al 6 agosto. Cosa propone? Quali sono le novità? Quali sono anche le scelte artistiche che avete scelto? Allora, quest'anno appunto già la novità è che invece di aver spalmato, diciamo, la Golandia su più weekend dell'estate, sarà un unico evento che dal 3 al 6 agosto appunto percorrerà idealmente il tracciato del Venturo Sentiero dei Laghi di Bologna. quindi chi vorrà potrà seguire il cammino totale, diciamo, che ricordiamo sono quasi 50 chilometri, quindi è dedicato ai camminatori più esperti, oppure, come è sempre stato in passato, le persone potranno prenotarsi per le singole tappe. Quindi ogni giorno ci sono due tappe guidate da due ospiti differenti e la sera all'arrivo di ogni tappa c'è un evento, un concerto, una situazione, diciamo, culturale, sempre gratuito, quindi l'unica cosa che è necessaria è prenotarsi. Gli eventi principali, appunto, abbiamo una serata con Massimo Zamboni proprio dentro la centrale Enea Brasimone, quindi in un contesto normalmente chiuso al pubblico, di una bellezza molto potente, quindi sarà sicuramente interessante questo suo reading spettacolo del suo ultimo libro, Bestiario Selvatico. Ci sarà il concerto di Ginevra Di Marco e le Stazioni Lunari al Lago di Santa Maria. Ci sarà in ultimo, a conclusione, un revival con Mingo a Castel dell'Alpi la domenica 6 agosto. I sentieri invece sono appunto condotti da esperti, abbiamo il professor Franco Farinelli, il geografo che insomma ha un po' teorizzato, insomma, una visione diversa dello stare in montagna. Abbiamo dei sentieri dedicati ai bambini con Lorenzo Monaco di Tecnoscienza, abbiamo le esplorazioni dentro il centro Enea dove si capirà le attività di ricerca che questo centro conduce, abbiamo sentieri che ragionano sull'abitare, sul turismo sostenibile con scrittrici, scrittori e ricercatori indipendenti, tra cui Sara Gainsforth, Luca Martinelli. Abbiamo esperti come Andrea Ugenti, che è un archeologo del clima. Diciamo che sono tutti piccole esperienze un po' fuori dal comune per imparare, appunto, qualcosa di più. Esatto, vivere il lago e questo Appennino. Perfetto, allora Chiara, io ti ringrazio e ti auguro una buona Lagolandia. Esattamente. E buon proseguimento. Vi e buona aspettiamo. Giornata. Grazie. Divinamente, io lo aggiungo sempre perché ci tengo. Parleremo anche di enogastronomia e di cibo all'interno dei magazine e non solo. Lagolandia, decima e ultima edizione, sarà nel 3-6 agosto 2023, un'anticipazione che arriva sulle frequenze di Radio Città Fugico, Laghi di Subiana, Brasimone, Santa Maria e Castel dell'Alpe. Tutto il programma ovviamente sul sito di Lagolandia, così avete modo di consultare comodamente le varie tappe che sono su prenotazione anche singola, giornata per giornata. Ovviamente io ringrazio per il servizio Clarissa La Penna, ringrazio anche per la collaborazione con Radio Città Fugico la nostra inviata esterna in questo periodo di collaborazione per interviste e conferenze stampa. al quale auguro ovviamente il meglio, ringraziandola ancora per questo nostro incontro e questo lavoro svolto assieme sui 103.1 e non solo. Quindi anche il sito, ricordando gli articoli della redazione culturale, musicale e giornalistica, e lo voglio citare, www.radiocittafugico.it. 8:01, a breve avremo lo stacco pubblicità, si rientra ufficialmente con la prima rubrica della settimana, rassegna stampa culturale, i magazine. A fra poco.